Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi è dedicata a un grande, una grande bacchetta, ma anche un compositore, un grande protagonista della musica del Novecento e forse anche un po' di più del Novecento, perché alcuni personaggi, diciamo così, esondano dai confini e dalle cronologie, ed era Leonard Bernstein. Perché parliamo di lui? Parliamo di lui questa sera, tra l'altro, con Giovanni Gavazzeni, che è qua in studio con noi, come di consueto, è il nostro critico di riferimento, scrive per il giornale, ma ricordo, autore di libri e anche nipote d'arte, perché il nonno Gianandrea Gavazzeni ne curò la formazione all'inizio. Ogni tanto ricordo questo fatto perché ha avuto un maestro molto severo. Buonasera Giovanni. Buonasera a tutti, buonasera Armando. Perché parliamo di Bernstein? Perché, intanto perché è un personaggio universale, come tu hai detto, non è soltanto stato un grande direttore d'orchestra tra i massimi, ma anche un compositore, scrittore e un uomo di cultura, perché aveva una preparazione culturale veramente amplissima, come gli ebrei di un certo tipo avevano, ecco. Io mi ricordo che qualche volta mi mostrava una conoscenza dei passi del Vangelo straordinaria, perché lui li leggeva nella lingua di Gesù e mi diceva: ma guarda che questo significa questo, qui nella traduzione vulgata è diverso, nella traduzione greca, perché aveva fatto le Boston Latin School e quindi sapeva anche il latino e il greco molto bene. Di Bernstein è uscito... È uscito finalmente un grande epistolario di lettere di e a Leonard Bernstein. Che mancava. Che mancava assolutamente e che è una lettura piuttosto entusiasmante. Per ora si può fare solo in lingua inglese, ma non è detto che ce ne saranno delle traduzioni. Anche se, diciamo, ci sono tantissime cose meravigliose in queste lettere, ma ne mancano molte altre, ecco, perché la sua era una vita veramente completissima. C'è pochissimo, per esempio, c'è molto poco sull'aspetto politico, perché tutto quello che Bernstein faceva aveva un alto significato politico, non solo per il suo impegno per i diritti civili, ma soprattutto per il suo impegno per la politica di Israele. Lui ha creduto con uno entusiasmo eccezionale nello Stato di Israele e si è prodigato sempre. Anzi, mi diceva che lui, quando dirigeva in Israele, e dirigeva tantissimo, non prendeva nemmeno il cachet. Possiamo magari cominciare con un piccolo ascolto, proprio cominciamo ad entrare nel mondo, certo, di Bernstein. Diciamo che in questo epistolario è molto coperto il rapporto straordinario con uno dei grandi padri della musica americana, che è Aaron Copland. Bernstein ebbe la fortuna di conoscerlo quando aveva 17 anni, il 14 novembre del 38, che era il giorno di compleanno di Copland. Erano seduti ad un concerto e Copland dopo l'ha invitato a casa sua al party, e il giovane ragazzino si è messo a suonare le Piano Variations, che sono un pezzo di diabolica difficoltà, molto arduo e complicato, di Copland davanti a tutti, e li ha lasciati senza fiato. E da quel giorno è nata un'amicizia che si è conclusa solo nel 1990, quando sono morti entrambi. E per Bernstein Copland era come Mosè, era un personaggio a cui rivolgersi nei momenti di difficoltà, non solo quel grande compositore che era, e aveva la possibilità di leggere tra i primi la musica che Copland aveva scritto, perché era gelosissimo delle sue partiture, però poi lo metteva al pianoforte, la partitura autografa, e la suonavano insieme. Possiamo scoprire tante cose su di lui leggendo questo The Leonard Bernstein Letters, pubblicato da Yale University Press, che si può ordinare su Amazon con tutti i canali. Assolutamente, perché non è ancora stato tradotto in Italia e difficilmente lo si trova in una libreria italiana. Che è interessantissimo, tranne nelle lettere dall'Italia, che sono meravigliose, ma che sono piene di omissis del curatore, che ogni tanto non conosce i nomi e allora li dimentica oppure dà delle sue interpretazioni erronee. Però sono lettere bellissime perché riguardano gli anni alla Scala con Maria Callas, con Luchino Visconti, eccetera eccetera. Ma io volevo tornare indietro a quel fatidico incontro con Aaron Copland per dirvi questo rapporto speciale di questi due musicisti. Bernstein è ancora ad Harvard ed è completamente disilluso da quello che sta succedendo. Ripetiamo, siamo nel marzo 38 e dice... Marzo 38, ecco, dobbiamo intenderci il trionfo, il massimo consenso di nazismo e fascismo, ecco. Scrive Bernstein, con milioni di persone che stanno diventando pazze e la pazzia cresce ogni giorno per colpa dell'uomo più folle che abbia mai incrociato il mondo. e con ogni elemento di quella che noi abbiamo pensato avesse raffinato la vita dell'uomo e fatto quella che noi chiamiamo civilizzazione, attivamente dimenticata, deliberatamente lasciata indietro come un vecchio rotaia ferroviaria, si chiede quale chance rimane. E è meraviglioso il signor Copeland dal suo albergo, l'Hotel Empire, dove viveva nella 63 a Broadway. Caro Leonard, che lettera, che esplosione, che ragazzo! Dice, hai completamente devastato il mio breakfast. Però, dice, il sole continua a splendere in un modo che sfida tutte le guerre e tutti i dittatori e nessuno ci può fare nulla di contro. E poi gli scrive, per quanto riguarda la tua generale disillusione riguardo all'arte, l'uomo, la vita, io ti posso solo dire, prospettiva, prospettiva e ancora prospettiva. Siamo solo nel 1938, l'uomo ha ancora molto tempo. L'arte è ancora piuttosto giovane, la vita ha la sua dialettica e non sei curioso di sapere, di vedere che cosa ci riserva il domani? Il domani già Copeland l'aveva capito, che quel ragazzino lì era un direttore d'orchestra. Dice, tu devi stare tranquillo, tu sei solo un direttore in attesa di un'orchestra, devi arrivare, aspettare la tua occasione. E lui poi è stato aiutato da personaggi straordinari. Incontra pochi giorni dopo Dimitri Mitropoulos, il celebre direttore d'orchestra greco, che si innamora follemente di lui. Dice, ma il mondo allora non è perduto se esistono delle persone come te. Il famoso Serge Koussevitzky, questo grande direttore russo che si era trasferito in America e aveva fondato il Festival di Tanglewood, lui diventa il suo pupillo e lo fa dirigere, lo fa suonare. E questo pupillo dirige l'Oedipus Rex di Stravinsky, dirige la prima americana di Peter Grimes di Britten, dirige delle cose straordinarie e brucia le tappe in maniera formidabile. Attenzione, come tutti gli ebrei era attento ai numeri. Lui incontra Copeland il 14 novembre del 38. Il 14 novembre la ritiene una data fortunata, perché il 14 novembre del 43 si ammala improvvisamente Bruno Walter e viene chiamato la mattina dal capo della Filarmonica di New York e dice, stasera tu devi dirigere un concerto che va in broadcast nazionale, quindi decine di milioni di ascoltatori. E poi com'è andato questo concerto tutti lo sanno, perché certo, è diventato storia. Prima facevamo un elenco delle lingue che conosceva, essendo di origine russa, conosceva perfettamente il tedesco, ovviamente l'americano era diventato... Conosceva bene l'italiano, il francese, il greco, il latino e l'aramaico. E poi l'aramaico, certo. E ovviamente il greco. L'aramaico, la lingua parlata da Gesù, l'aramaico occidentale, che era, diciamo così, un qualcosa in più per la conoscenza. Ma di che un passione ebreo che aveva per le culture musicali di tutti i paesi che visitava, del Messico, dell'America Latina. Aveva una conoscenza della musica popolare che era veramente eccezionale. Ecco, ma qui dobbiamo trasferirci in pieno Novecento, in un momento cruciale. Sì, che perché lui ha conquistato, direi, tutte le città, l'Italia, Firenze, Milano, era di casa, Roma, Parigi, Londra, ma aspettò la metà degli anni 60 per andare a Vienna, perché Vienna era ancora la città del terzo uomo, era la città, insomma... E c'è una meravigliosa lettera che scrive ai suoi genitori. Dice, adesso ho un minuto di tempo e vi scrivo. Siamo nel 1966, dall'Hotel Bristol, davanti alla Staatsoper di Vienna. Dice, sto apprezzando Vienna enormemente, come può un ebreo. Ci sono molte tristi memorie qui e uno ha a che fare con così tanti ex nazisti e forse ancora nazisti. Ma dice, tu non devi sapere se il pubblico che ti sta gridando bravo, in quel pubblico ci sono persone che 25 anni fa avrebbero voluto spararti. Ma è meglio perdonare e forse dimenticare. La città è così bella, così piena di tradizione. Ognuno qui vive per la musica, specialmente per l'opera, e sembra che io sia diventato il nuovo eroe. Quella che chiamano l'onda Bernstein, che ha travolto la città di Vienna, ha prodotto, dice, strani risultati. Improvvisamente sembra di moda essere ebreo. E questo lo dice con molta ironia, perché per esempio l'orchestra con cui lavorava molto, la famosa Filarmonica di Vienna, aveva molti elementi che erano stati tesserati dal partito nazista, fra i quali una delle trombe, che era un po' il manager dell'orchestra, era non solo tesserato nazista, ma era una spia del servizio segreto delle SS, quindi qualcosa di più. Beh, volete sapere che Bernstein non voleva più dirigere, Allora, un altro direttore ebreo, Georg Scholti, gli scrisse, dice, guarda, io lavoro molto con la Filarmonica di Vienna e devi sapere che quello lì è uno degli elementi più capaci, più preparati e più devoti a te. Ha fatto di tutto per farti venire a dirigere a Vienna. Dice, se noi vogliamo insegnare alle nuove generazioni di musicisti cosa vuol dire essere ebrei, bisogna lavorare con loro per istruirli. E infatti Bernstein dal 1966 è diventato il direttore più amato a Vienna. I Wiener non avevano un direttore musicale stabile, ma avevano Leonard Bernstein, diciamo primo fra gli altri. Quando Karajan litigò con i Berliner e volle fare dei concerti con la Filarmonica di Vienna, chiesero il parere a Bernstein. Bernstein disse, non me ne frega niente dei problemi di Karajan, diriga quello che vuole. Però gli chiesero il parere. E se Bernstein fosse stato contrario, Karajan non avrebbe diretto con i Filarmonici di Vienna. E ha fatto dei grandi cicli. Per primo ha detto, ma come? Gustav Mahler era il vostro direttore, era il direttore della Staatsoper. Voi lo dovete amare. Dice, questa orchestra non ama Mahler. E ha fatto dei cicli mahleriani meravigliosi e alla fine l'ha fatto diventare un autore amatissimo a Vienna. Ha fatto dei cicli di Beethoven favolosi, un celeberrimo Fidelio che ha portato in tournée anche alla Scala di Milano. Quindi diciamo che poi, dopo da quella data, è diventato di casa a Vienna, perché era la città della musica. Però volevo spostare l'attenzione su un altro fatto, sulla generosità umana, di cui si è molto parlato di Bernstein. C'è una lettera, secondo me, straordinaria. È dell'agosto del 1981, quando si diffuse la notizia che il decano delle bacchette tedesche, Karl Böhm, avrebbe interrotto la sua carriera. E siccome non aveva finito un'incisione di Elektra di Strauss, disse che l'unico che poteva completarla era Leonard Bernstein. Allora Bernstein gli scrive una lettera meravigliosa dove gli dice, caro maestro Karl, dice, io sono senza parole per l'onore che mi hai fatto, perché dice, e dopo tutto, dice, tu sei nato nel regno di Mozart, Wagner e Strauss, con pieno titolo in quel regno, mentre io sono nato in quello di Gershwin e Copland, quindi la mia titolarietà nel regno della musica europea è quella, per così dire, di un figlio adottivo. Quindi dice, puoi immaginare la mia sorpresa. E ricordo un episodio magnifico. Böhm volle assistere a una prova lunghissima del Tristano che Bernstein dirigeva a Monaco, e dice, alla fine della prova era intimorito Bernstein, perché insomma l'autorità wagneriana di Böhm era indiscussa, e Böhm si avvicinò e Bernstein gli disse, ma dice, ti è piaciuto? E dice, perfino il preludio, Bernstein sapeva che nella sua esecuzione il preludio durava 5 minuti più lungo, più lento di quello che faceva Böhm. E Böhm gli disse, proprio il preludio mi è piaciuto moltissimo. E dice che improvvisamente Böhm era sembrato diventare un giovanotto, quasi che bruciava, radioso. E dice, e io ero in paradiso, non solo per questa incredibile imprimatur che mi dava il Papa Wagneriano stesso, ma perché stavo guardando una specie di rinnovellamento quasi faustiano, mistico. E poi chiude con una cosa meravigliosa, gli dice, tu mi hai insegnato in saggezza quello che io stavo eseguendo per intuizione. Tu sei giovane, un uomo giovane e forte. Tu sei giovane, per favore rimani per me, per i miei colleghi, per l'arte. Quello che hai dato nella musica ti ha fatto immortale. Non ti incoraggia questo a rimanere con noi e a insegnarci per sempre? Sono parole molto belle e soprattutto rivelano degli animi eccezionali. Sì. Diciamo che il mondo della musica sovente offre animi di questo genere al mondo, ne regala in grande quantità o in piccola quantità, dipende dalle epoche. Ma chi avrebbe mai immaginato che questo austero austriaco depositario della tradizione e questo mozartiano, sì, insuperabile, questo wagneriano straussiano, certo, indiscutibile, eccetera eccetera eccetera, e poi con quale eleganza gli dice di rimanere, insomma. È molto bello tutto ciò. Inviterei Giovanni a presentare brevissimamente, ed è anche la grande conoscenza che Bernstein aveva di Haydn. Sì, dei classici, abbiamo parlato prima di Böhm, no? Ma nel regno, diciamo, in questo regno della musica europea ci entrava benissimo. Per esempio Bernstein è uno dei pochi che ha eseguito e inciso le ultime grandi messe di Joseph Haydn, che sono dei capolavori straordinari, un anello senza il quale non si capisce come poi da Mozart si passi alla Missa Solemnis di Beethoven, tanto per dire. Cherubini e Haydn sono due pilastri straordinari. la spiritualità in Bernstein era veramente omnicomprensiva, ecco. Possiamo magari mettere alla fine una lettera, qualcosa che ti ha colpito? Beh, l'ultima lettera è commovente perché è una lettera di Georg Scholti alla notizia che Bernstein si sarebbe ritirato dalla direzione, insomma, dall'attività di direttore d'orchestra. E gli offre tutto il suo sostegno e tutto il suo appoggio e dice: è meraviglioso sapere che continuerai comunque a scrivere e a insegnare. Come sempre, Georg. E questa lettera è del 10 ottobre, Bernstein è morto il 14, cioè 4 giorni dopo. Incredibile. Sì. Quindi direi che quell'uomo lì, senza un'attività pratica, il momento in cui la notizia sarebbe arrivata del suo ritiro, sarebbe stata la notizia della sua morte, insomma. E tale fare fu. Musica era la sua vita. E tale fu. La vita è musica, la musica è vita. Assolutamente conseguente. Bene, mi sembra che questo epistolario possiamo ricordarlo ancora per chiunque volesse magari cercarlo su Amazon e chiedere, ordinarlo. The Leonard Bernstein Letters, è pubblicato da Yale University Press. C'è grosso modo un prezzo indicativo in dollari, in euro? In dollari dovrebbe esserci, il prezzo è di 33, all'incirca in Italia si arriva a 33 euro. 33 euro, quindi vale la pena. È abbastanza ragionevole. Tutti coloro che desiderano conoscere un grande del Novecento ora hanno questa possibilità. Sì, soprattutto poi ci sono anche lettere molto piccanti, ecco, ci sono tutti gli anni della psicoanalisi e delle multiple relazioni sentimentali. Si innamorano tutti di lui. Ma questo è un altro capitolo, bisognerebbe fare una puntata a sé. Direi che è il caso di ringraziare Giovanni Gavazzini, che come sempre è disponibile e poi è un po' di casa qui a Musica Maestro. Diciamo che lui ha adottato noi, ma noi abbiamo adottato lui. Grazie mille a voi tutti, agli ascoltatori, a Armando. E allora vi do appuntamento come sempre domenica prossima alle 21. Un cordiale saluto da Armando Torno e da Giovanni Gavazzini.